E canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. Ma qui la morta poesia risurga, o sante muse, poiché vostro sono. E qui Caliope alquanto surga, seguitando il mio canto con quel sono di cui le piche misere sentirono colpo tal che disperar perdono. L'anime che essi fuor di me accorte per lo spirare, ch'io era ancor vivo, meravigliando diventaro ismorte. E come a messagger che porta ulivo tragge la gente per udir novelle, e di calcar nessun si mostra schivo, così al viso mio s'affisser quelle anime fortunate tutte quante, quasi obliando dire a farsi belle. Io vidi una di loro trarsi avante per abbracciarmi con sì grande affetto che mosse me a farlo simigliante. O ombre vane, forche nell'aspetto, 3 volte dietro a lei le mani avinsi e tante mi tornar con nulla al petto. Di meraviglia, credo, mi dipinsi, perché l'ombra sorrise e si ritrasse e io seguendo lei oltre mi pinsi. Soavemente disse ch'io posasse, allor conobbi chi era e pregai che per parlarmi un poco s'arrestasse. E io, se nova legge non ti toglie, memoria uso all'amoroso canto che mi solea quietar tutte mie voglie. Di ciò ti piaccia consolarmi alquanto l'anima mia che con la sua persona venendo qui è affannata tanto. Amor che nella mente mi ragiona, cominciò egli allor sì dolcemente che la dolcezza ancor dentro mi sona. Lo mio maestro io e quella gente che eran con lui parean sì contenti come a nessun toccass'altro la mente. Trema forse più giù poco, assai, ma per vento che in terra si nasconda, non so come quassù non trema mai. Tremaci quando alcun'anima monda sentesi, sì che surga o che si muova per salir su, e tal grido seconda. Della mondizia sol voler fa prova che tutto libero a mutar con vento, l'alma sorprende di volerli giova. Prima vuol ben, ma non lascia il talento che divina giustizia con tal voglia come fu al peccar pone al tormento. E io, che son giaciuto a questa doglia, 500 anni e più, pur mo sentii libera volontà di miglior soglia, però sentisti il tremoto e li pii spiriti per lo monte render lode a quel signor che tosto su l'invii. Ora chi fosti, piacciati ch'io sappia, e perché tanti secoli giaciuto qui sei, nelle parole tue mi cappia? Tanto fu dolce mio vocale spirto, che tolosano a sé mi trasse Roma, dove mertai le tempie ornar di mirto. Stazio la gente ancor di là mi noma, cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor forse me le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di 1000, dell'Eneide dico la qual mamma fummi e fummi nutrice poetando, senza essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là quando visse Virgilio, assentirei un sole più ch'io non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole, con viso che tacendo disse taci. Ma non può tutto la vertù che vuole, che riso e pianto son tanto sequaci alla passion, da che ciascun si spicca, che men sieguon voler né più veraci. Io pur sorrisi come l'uom ch'amicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi, ove il sembiante più si ficca, e se tanto labore in bene assommi, disse, perché la faccia tua a te steso un lampeggiar di riso dimostrommi. Or son io d'una parte e d'altra preso, l'uno mi fa tacer, l'altro scongiura ch'io dica, ond'io sospiro e son inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io Forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi mei è quel Virgilio dal qual tutto gli esti forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non ver essere, credi quelle parole che di lui dicesti. Già s'inchinava ad abbracciarli i piedi al mio dottore, ma ei disse: frate, non far, che tu sei ombra e ombra vedi. Ed ei surgendo, or poi, la quantitate comprender dell'amor che a te mi scalda, quand'io dismento nostra vanitate, trattando l'ombre come cosa salda. Si disse prima e poi: qui non si vieta di nominar ciascun da che si munta nostra sembianza via per la dieta. Questi, e mostrò col dito, è buona giunta da Lucca. Ma dissio veggio qui colui che fore trasse le nove rime incominciando, donne che avete intelletto d'amore. E io a lui, io mi son un che quando amor mi ispira noto e a quel modo che i ditta dentro vo significando. O frate, issa veggio dissegli il nodo che il notaro e guitone me ritenne di qua dal dolce stile il novo chiodo. Io veggio ben come le vostre penne di rietro al dittator sen vanno strette, che delle nostre certo non avvenne. E qual più a guardar oltre si mette non vede più dall'uno all'altro stilo, e quasi contentato si tacette. Come gli ausel che vernan lungo il Nilo, alcuna volta in aer fanno schiera, poi volan più a fretta e vanno in filo, così tutta la gente che lì era, volgendo il viso, raffrettò suo passo, e per magrezza e per voler leggera, e come l'om che di trottare lasso, lascia andar li compagni e si passeggia, finché si sfoghi lo follar del casso, si lasciò trapassar la santa greggia forese. E dietro meco sen veniva dicendo: quando fie ch'io ti riveggia? Colui non par corpo fittizio. Lì veggio d'ogni parte farsi presta, ciascun ombra e basciarsi una con una, senza ristar, contente a breve festa. Così per entro loro ischiera bruna s'amusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parton l'accoglienza amica, prima che il primo passo la trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica la nuova gente: Sodoma e Gomorra! E l'altra nella vacca intrapasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi come grue, ca le montagne rife, volasser parte e parte inver l'arene, queste del gelo e quelle del sol schife, l'una gente sen va, l'altra sen vene, e tornan lagrimando ai primi canti e al grido dar che più lor si convene. Era costanzi a me come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltar nei lor sembianti. Io che due volte avea visto lor grato, incominciai: o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato. Non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco, col sangue loro e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco, donne di sopra che n'acquista grazia, perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi che pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi a ciò ch'ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di rietro ai vostri terghi? Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge seguendo come bestie l'appetito? In obbrobrio per noi si legge quando partinci il nome di colei che s'imbestiò nelle imbestiate schegge. Or sai nostratti e di che fummo rei, se forse a nome vuoi saper chi semo, tempo non è di dire e non saprei. Farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi pria che all'estremo. quali nella tristizia di Ligurgo si fer due figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non a tanto insurgo, quand'io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri miei miglior che mai rime d'amore usar, dolci e leggiadre, e senza udire e dir, pensoso andai, lunga fiata, rimirando lui, né per lo foco e là più m'appressai. Poiché del riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui, ed egli a me: tu lasci tal vestigio per quel ch'io odo in me, e tanto chiaro che l'età non può torre né far bigio. Ma se le tue parole orver giuraro, dimmi che cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito, e additò un spirto innanzi, fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore e prose di romanzi soverchiò tutti, e lascia dirli stolti che quel di Lemosì credon cavanzi. A voce più che al ver drizzan li volti, e così ferman sua opinione, prima carte o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guitone, di grido in grido pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Or, se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l'andare al chiostro, nel quale Cristo, abate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro, quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar loco altrui, secondo, che presso avea, disparve per lo fuoco come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava grazioso loco. Ehi cominciò liberamente a dire: Tam abelis vestre cortes deman, quieu non puosc ni voglia vos cobrire. Jeu sui Arnaut che plore vau cantan, con si ros vei les passada folor, e vei già usen lo gioi che sper denan. Ara vos prec per aquela valor, che vos guida al son dell'escalina, sovegna vos a temps de madulor. Poi s'ascose nel foco che li affina. Io mi rivolsi indietro allora tutto ai miei poeti e vidi che con riso udito avevano l'ultimo costrutto. Poi alla bella donna tornai il viso. O sacrosante Virgine, se fami, freddi o vigilie mai per voi soffersi, cagion mi sprona ch'io mercè vi chiami. Or convèn che l'icona per me versi e Urania m'aiuti col suo coro forte cose a pensar metter in versi. E lo spirito mio che già cotanto tempo era stato ch'alla sua presenza non era di stupor tremando infranto, senza degli occhi aver più conoscenza, per occulta virtù che da lei mosse, d'antico amor sentì la gran potenza, tosto che nella vista mi percosse l'alta virtù che già m'avea trafitto prima ch'io fuor di puerizia fosse, volsimi alla sinistra con respitto. delitto col quale il fantolin corre alla mamma quando ha paura o quando egli è afflitto per dicere a Virgilio: men che dramma di sangue m'è rimasa che non tremi, conosco i segni dell'antica fiamma. Ma Virgilio n'avea lasciati scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute diemi, né quantunque perdeo l'antica madre, valsi alle guance nette di Rogiada che, lagrimando, non tornasse radre. Dante, perché Virgilio se ne vada, non pianger anco, non pianger ancora, che pianger ti convien per altra spada. Quasi ammiraglio che in poppa e in prora vene a veder la gente che ministra per gli altri legni e a ben farla ancora. In sulla sponda del carro sinistra, quando mi volsi al son del nome mio, che di necessità qui si registra, vidi la donna che pria m'apparìo, velata sotto l'angelica festa, drizzar gli occhi ver me di qua dal rio. Tutto che il vel che li scendea di testa, cerchiato dalle fronde di Minerva, non la lasciasse parer manifesta, regalmente nell'atto ancor proterva, continuò come colui che dice e il più caldo parlar dietro riserva. Guardaci ben, se ben sem Beatrice, come degnasti d'accedere al monte, non sapei tu che qui è l'uom felice? Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte, ma veggendomi nesso i trassi all'erba tanta vergogna, mi gravò la fronte. Così la madre al figlio par superba, come ella parve a me, perché d'amaro sente il sapor della pietate acerba. Ella si tacque, e gli angioli cantaro di subito: in te domine speravi, ma oltre pedes meos non passaro. Sì come neve tra le vive travi, per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta, in se stessa trapela, purché la terra che per d'ombra spiri, sì che par foco fonder la candela, così fui senza lagrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle rote degli eterni giri, ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compartire a me, perché se detto avesser donna, perché sì lo stempre, lo gel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì dal petto. Era la mia virtù tanto confusa che la voce si mosse e pria si spense, che dagli organi suoi fosse dischiusa, poco sofferse, poi disse: che pense, rispondi a me, che le memorie triste in te non sono ancor dall'acqua offense. Confusione e paura insieme miste mi pinsero un tal sì fuor della bocca, al quale intender fuor mistier le viste, come balestra frange quando scocca da troppo tesa la sua corda e l'arco, e con men foga l'asta il segno tocca, si scoppia io sottesso grave carco, fuori sgorgando lagrime e sospiri, e la voce alentò per lo suo varco, ond'ella a me: per entro i miei disiri che ti menavano ad amarlo bene, di là dal qual non è a che s'aspiri, quai fossi attraversati o quai catene trovasti, perché del passare innanzi dovessi ti così spogliar la spene? E quali agevolezze o quali avanzi nella fronte degli altri si mostraro, perché dovessi lor passeggiar anzi? Dopo la tratta d'un sospiro amaro, appena ebbi la voce che rispose e le labbra a fatica la formaro, piangendo dissi: le presenti cose col falso lor piacer volser miei passi, tosto che il vostro viso si nascose. Ed ella, se tacessi o se negassi ciò che confessi, non fora men nota la colpa tua, da tal giudice sassi. Ma quando scoppia della propria gota l'accusa del peccato in nostra corte, rivolge sé contra il taglio la rota. Tuttavia, perché mo vergogna porte del tuo errore e perché altra volta, udendo le sirene sì più forte, pon giù il seme del piangere e ascolta, si udirai come in contraria parte mover dovieti mia carne sepolta. Mai non t'appresentò naturo arte piacer quanto le melle me belle membra anch'io rinchiusa fui e che son terra sparte, e se il sommo piacer si ti fallio per la mia morte qualcosa mortale dovea poi trar te nel suo disio, ben ti dovevi per lo primo strale delle cose fallace levar suso di rietro a me che non era più tale. Non ti dovea gravar le penne in giuso ad aspettar più colpo pargoletta o altra novità con sì brevuso. Nova augelletto due o tre aspetta, ma dinanzi dagli occhi di pennuti rete si spiega in darno si saietta. Quali fanciulli vergognando muti con gli occhi a terra stanno si ascoltando e se riconoscendo e ripentuti tal mi stavio. Ed ella disse, quando per udir sei dolente alza la barba e prenderai più doglia riguardando. Commenti resistenza si di barba robusto cerro, ovvero al nostro al vento, ovvero a quel della terra di Iarba, ch'io non levai al suo comando il mento. E quando per la barba il viso chiese, ben conobbi il velen dell'argomento. Come in color che troppo reverenti dinanzi a suoi maggior parlando sono, che non traggon la voce viva ai denti, avvenne a me che senza intero sono incominciai. Madonna mia bisogna voi conoscete e ciò ch'ad essa è buono. Ed ella a me, da tema e da vergogna, voglio che tu omai ti disvoluppe, sì che non parli più com'om che sogna.